Nessuno possiede una più spiccata sensibilità nazionale di chi è nato in una terra di confine. Lo Zardini, nato nel 1869 alla frontiera con l'Austria, non volle perciò mai disgiungere in sé e nella sua opera i termini di friulanità e di italianità. Come italiano sentì la necessità, o meglio avvertì la spinta dal profondo della sua coscienza, di salutare con la musica le vittorie italiane durante la guerra di Libia. Compose in quei giorni di entusiasmo e di passione le marce Ascari e Derna. In quest'ultima intero il tumulto del suo cuore gagliardo. Numerose le sue composizioni, canti idillici, canti a danza o a marcia, canti civili. Vanno ricordate le pagine di musica religiosa che egli dirigeva durante le sacre funzioni nella parrocchiale in vista del superbo altare gotico in legno di Sigismondo Wolfgang Haller. Le figure, intagliate dal maestro tedesco, avevano impressionato i suoi occhi di fanciullo. Quelle figure lo avevano indubbiamente ispirato nel pregare con il canto, il Signore e la Vergine. Nuova testimonianza ad ogni modo che la sua opera guardò sempre alla configurazione spirituale dei friulani, i quali costituiscono l'antemurale nei secoli della civiltà cristiana in Occidente. E una commovente religiosità non percorre forse dalla prima all'ultima battuta Stellutis Alpinis? E questo è il canto giustamente più famoso di Arturo Zardini. Sbocciato a Firenze nel 1918 sulla tastiera di un vecchio pianoforte della trattoria al Porcellino in Piazza dei Fiori. L'autore viveva profugo, impiegato del comune di Pontebba come da sempre, nella città toscana, in vista del colle di Fiesole e dei dossi di Pratomagno dell'Arno dagli incantevoli ponti. Ma il pensiero costante era altrove, alla sua Pontebba, distrutta ormai dal cannone, al Friuli che gemeva sotto il tallone dell'invasore. Nel cuore del cantore in esilio, tutte le croci, che affiorando dalle rocce, ricordavano il sacrificio dei caduti per la patria. Stellutis Alpinis non è soltanto il canto dell'alpino morto, la voce del soldato caduto sulle soglie violate d'Italia. È anche il canto degli uomini, di tutti gli uomini che oltre la morte terrena continuano a sognare la casa, la donna lontane, che spiriti consolatori non vogliono disertare il mondo dei vivi e dei sofferenti. Quando morì, Stellutis Alpinis avvolsero la bara di lui calata nella fossa e da allora, nell'anniversario della morte, il 4 gennaio di ogni anno, risuonano nel cimitero di San Rocco tra il murmure del fella e il silenzio delle nevi che disegnano bianchi fiori sulla tomba. Anche il canto che state ascoltando è registrato sulla tomba di Arturo Zardini. Canta il suo coro, il coro di Pontebba. Ed è sera, e sulle vette dei monti l'ultimo sole si direbbe il luminoso sguardo del maestro. Ma ogni anno, in una domenica d'agosto, Il canto di Stelutis viene ripetuto dallo stesso coro al passo di Framollo, sul confine tra l'Austria e l'Italia, anzi, sulla tomba del soldato ignoto austriaco, di un Alpenjäger che combatté forse contro l'alpino del canto. Perché i soldati caduti hanno ormai una patria senza reticolati e senza trincee, senza odii e senza confini. E tutti hanno lasciato in pianto disperatamente sola una donna. Solo l'amore può asciugare quel pianto. Il canto umanissimo di Arturo Zardini, nelle voci diffuse a confortare i superstiti di lingue e di razze diverse. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Arturo Zardini, il cantore emigrante. Testo di Dino Menichini. Hanno partecipato alla trasmissione il coro Arturo Zardini di Pontebba, diretto dal maestro Gino Piemonte. E la banda e la scuola cantorum della parrocchiale di Pontebba, diretti da Don Lionello Baraccetti. Musiche originali di Arturo Zardini.